Lights are on. E stanno per scoccare le ore 21, manca poco, qui a Radio Onda Rossa, che modula sulla modulazione di frequenza con attraverso 87.9 col sito internet www.ondarossa.info, uno streaming già particolarmente affollato, il che mi fa ovviamente piacere. Per chi volesse comunque comunicare mediante email con questa emittente, ondarossa@ondarossa.info. Sul sito della radio domani e anche sui vari riferimenti miei personali di Facebook ci sarà la replica con la playlist e la registrazione sonora. Qui in radio si può trovare ancora la Scarceranda 2021, l'autoproduzione più famosa di Radio Onda Rossa, un quaderno dedicato alle tematiche del carcere, comprese anche delle cosiddette ricette, diciamo, di cucina, che hanno ovviamente un rapporto anche con la situazione di chi è recluso. Ricordo anche il 31 dicembre la